I monti. L'Italia ha due catene di montagne, le Alpi al nord e gli Appennini lungo la penisola. Insieme coprono una superficie del 75% di tutto il territorio italiano. Le Alpi italiane a nord, con quelle della Francia, della Svizzera, del Liechtenstein, dell'Austria, della Germania e della Slovenia, sono la catena montuosa più grande d'Europa. Le Alpi italiane sono lunghe circa 1200 chilometri e la cima più alta è quella del Monte Bianco, con 4807 metri. Le Dolomiti sono una parte molto importante delle Alpi dal punto di vista turistico. A sud delle Alpi ci sono le Prealpi, non molto alte e senza ghiacciai. La zona delle Prealpi è famosa soprattutto per i laghi, come il Lago Maggiore e il Lago di Garda. C'è poi la pianura padana, chiamata così dal nome del fiume Po. Dalla Liguria fino alla Calabria ci sono gli Appennini, la spina dorsale dell'Italia. Anche nella Sicilia settentrionale abbiamo dei monti, che sono come una continuazione degli Appennini. Questa catena di montagne ha un'altezza inferiore a quella delle Alpi e infatti la cima più alta, il Gran Sasso d'Italia, in Abruzzo, è a 2912 metri di altitudine sul livello del mare. Grazie alla catena appenninica, la penisola ha due versanti, il Tirrenico e l'Adriatico, che sono molto differenti l'uno dall'altro. Il versante tirrenico ha la zona della montagna molto vasta e ampia, mentre il versante adriatico ha le montagne a picco sul mare.